sabato 14 marzo appunto abbiamo chiamato la città di Bologna tutta, la regione Emilia Romagna a scendere in piazza, quindi è un appello, come abbiamo detto, alla città tutta. Fra appunto i primi punti che vogliamo rivendicare c'è sicuramente appunto un attacco al progetto autoritario del governo Meloni, quindi un attacco ai nuovi decreti di sicurezza che, come è già stato detto, vengono anche utilizzati poche settimane dopo l'applicazione e dopo che sono stati appunto varati. C'è sicuramente una netta opposizione alla volontà di costruire un CPR in Emilia Romagna, che appunto storicamente è sempre stata una regione che si è opposta a questi CPR, che sono appunto lager di Stato che noi appunto che non vogliamo né qui né altrove. C'è da una parte ovviamente anche un no netto all'attacco alla magistratura, alla divisione dei poteri, quindi anche appunto visto che si colloca la settimana prima del referendum, ovviamente c'è anche un no al referendum, e metto anche sul campo comunque un no agli attacchi che vengono fatti al mondo della cultura. Quindi comunque, come è già stato anche un po' detto, sarà un corteo musicale in cui comunque anche artisti saranno chiamati e porteranno un loro contributo, anche perché comunque, come sappiamo, il mondo della cultura è uno anche dei primi che vengono attaccati a livello appunto del governo. Questi sono, diciamo, i grandi no, che sono sicuramente importanti per il momento storico in cui si colloca, per cui sarà una battaglia importante quella del non referendum, le guerre che vediamo tutti i giorni, ovviamente in maniera intersezionale. Per questo mettiamo tutti i no, tutti noi all'interno, together, all'interno dello striscione che vedete qui. Tocca proprio la vita delle persone e i no che vogliono rispondere alla deriva autoritaria che stiamo vedendo. Quindi no alla guerra, stamattina abbiamo visto anche un'altra comunicazione online che dice no al caro vita, cioè vediamo i carrelli vuoti e le spese militari che aumentano, come il appunto no all'attacco ai medici e alle mediche, quindi come da la vita quotidiana di tutti i giorni all'attacco a le professioni, gli ambiti del lavoro e le istituzioni, questi grandi no si collegano in maniera intersezionale, e questa manifestazione viene a fronte di un percorso ormai attivo da diversi anni, di un lavoro di convergenza che facciamo insieme e l'adesione di oltre 50-60 realtà è anche sintomo di questo. Allo stesso tempo, questi dati che riportiamo di quanto queste scelte autoritarie gravano sulla vita delle persone portano anche una spinta emotiva. Per questo facciamo un appello alla città, per cui non solo la parte di chi fa parte di un progetto politico, ma singoli e singole che dicono il proprio no, no alla scheggiatura degli insegnanti, no all'attacco dei medici, no al referendum, no al fatto che non riusciamo a pagare l'affitto, e soprattutto no al fatto che, e questo è importante rimarcarlo per quello che sta succedendo, viene limitata la possibilità di esprimere dissenso in qualsiasi modo, prima col decreto sicurezza che abbiamo combattuto come torsione autoritaria, ma adesso è un fatto la torsione autoritaria che si sta realizzando, che non solo mira a reprimere ma mira preventivamente a disincentivare la possibilità di dissenso con i DASPI, con i fermi, oltre alla violenza che vediamo nelle piazze, oltre al ricatto economico che si fa sulle persone. È inaccettabile una democrazia, e si esprimerà forte questo no dal 14 e anche poi il 27-28 dopo il risultato del referendum, che sarà importante per dare una spallata a questo governo. E poi ci vedremo a Roma con il concertone Kings e la manifestazione oceanica. Ci aspettiamo del 28 marzo.